Sguardi, eyeliner, calma, vedi che mi hai fatto far. Bard, mascara, togli, io voglio essere bello per te. Pettine, capelli, lascia stare, non vedi che sono ribelli. Trucco, trucco, trucco, trucco, rosa, blu, viola, io voglio essere bello per te. Trucco, trucco, trucco, trucco. Se metto il vestito, lui non chiamerà, così metto meno e dopo mi solazzerà. Trucco, trucco, trucco. Sigaretta, sono pronto, lui mi aspetta. Fumo una sigaretta.